Il punto di Stefano Folli. Fa sempre effetto vedere il governo, cioè il potere politico, che dà il via a una tale cascata di nomine nel settore dell'economia pubblica. Ci ricorda quanto sia grande il peso della mano statale in un settore allargato, molto allargato in Italia, per il quale alla fine il vero giudice sarà comunque il mercato. Sono apprezzabili quindi alcune novità. Va salutato con favore l'ingresso di un certo numero di donne ed è la prima volta ai vertici degli enti, senza dimenticare che si tratta per lo più di ruoli non operativi. Ma stamane non c'è spazio né per il giubilo né per la critica severa. Renzi ha fatto ciò che doveva e ha riassestato un sistema di potere, da oggi il suo sistema di potere, tenendo conto degli equilibri politici che reggono il suo governo e quindi anche la rete dei grandi enti a partecipazione pubblica. Ora aspettiamo che sia il mercato a dire la sua, ma almeno sulle nomine più importanti la competenza sembra salva e anzi valorizzata. Di conseguenza possiamo attenderci che il responso delle borse rispecchierà queste valutazioni.